Mi ritrovo solo in un cunicolo scuro, manca l'aria e davanti a un muro c'è una fessura in cui non riesco a passare. Ora non so più come fare a scappare, tra una luce lontana di qua non uscirò. Come raggiungerla? Non lo so. Imbocco della sabbia che non riesco a sputare, la devo ingoiare. Sto per collassare, questo buio mi demoralizza, vorrei sentire la tua voce che mi tranquillizza. L'agitazione ormai ha preso il sopravvento, il cuore è impazzito e non va più a tempo. A forza di non respirare sento la testa scoppiare, provo ad urlare, nessuno mi può ascoltare. Sento i rumori che arrivano dalla superficie, sento parole, risate, una voce che sembra felice. Vorrei sentire una mano che mi tira su, una voce che dice non soffrirai più. Mentre il freddo mi blocca, mi chiedo come faccio. Vorrei sentire il calore di un abbraccio. Provo ad arretrare, ci sarà un modo per fuggire. Questo dolore che provo lo vorrei far svanire. Avrei bisogno di sentire che mi dici tutto si risolverà. Vorrei accorgermi che era un incubo e non la realtà. Ricordo solo l'istante in cui tutto mi è crollato addosso e dopo non mi sono più mosso. E quando finalmente sarò fuori, sarò felice anche senza miratori. Ma ormai fuori è tutta una rovina, non esiste più niente di quello che c'era prima. Incubo. Ma ora mi rendo conto che forse da qui non uscirò. Provo a scavare fra le macerie ma non ci riuscirò. Nessuno mi salverà, non dovrò aver gratitudine. Solo silenzio ormai in questa solitudine. Mentre i pensieri nella testa si affollano, le emozioni sempre più forti non mi mollano. Forse fuori non mi stanno neanche più cercando, sto sprofondando e non mi stanno aspettando. Non ho più spazio per muovermi ma il cielo lo vorrei ancora vedere. Ci sono ancora tante cose che non so ma vorrei sapere. Vorrei sentire il vento fresco e le tue labbra su di me. Vorrei essere almeno un attimo ancora con te. Ma ora inizio a tremare, mi sento legato. Non riesco a muovermi, mi sento imprigionato. Dal mondo intero dimenticato, per sempre qua sotto abbandonato. Inizio a singhiozzare, nessuno mi può trovare. Eppure avevo ancora tante cose da fare. Sento i graffi e le ferite bruciare. Non ce la faccio più ad aspettare. Chissà se anche tu pensi quello che penso io. Avrei voluto almeno poterti dire addio. Strano questo scherzo che il destino ci ha voluto fare. Per una volta ancora il tuo sguardo vorrei incrociare. Ci sono cose che non so spiegare e cose che non sono mai stato in grado di realizzare. Quello che ho dentro non lo so dimostrare. Ho sempre avuto un po' paura di amare e la musica ormai non la sento più. Mi sembra addirittura di sprofondare sempre più giù.